is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli è sempre mezzanotte, Kappa e Drago, impegnati nella missione di salvare il tucano triste dal suo sicuro destino, rischiano di dover fare le pulizie. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Ehi, hey, Galetti! Oh, il pollo inglese! Com'è che ci ha chiamato? Galetti! Sì, parla un po' per te, Galetti. Infatti, cerchiamo di non fare confusione. Tu sei un pollo, noi no. Anche tu. Non è vero. Cioè, io sono un pollo. Scusa, guardami bene, io non ho il becco, non ho le piume, non ho le zampe, non ho gli occhi ai lati della testa, non ho la linguetta rossa a punta. Hai le zampe di gallina. Ho un po' di zampe di gallina, ma è nemmeno calma, quindi... All'inizio è così per tutti. No, cosa vuol dire? Niente, niente. Allora? Che cos'è? Siete riusciti a fare qualcosa per il tucano? No, però abbiamo fondato il comitato Vola Tucano. Magari potrebbe aiutare la causa. Vuoi sentire l'inno di Vola Tucano? Non è il caso. No, no, no, guarda che bello. Adesso te lo facciamo sentire, guarda, fa così. Vola Tucano, vola Tucano, vola più lontano, vola Tucano, libero lui tornerà nel suo Sud America. Vola Tucano, vola Tucano, vola brasiliano, 3 giorni 50 morra. Bella canzone, davvero, ma se volete aiutare il tucano, dovreste metterlo a dieta. Ma cosa c'entra? Fondate un comitato e chiamatelo Digiuna Tucano. Molto divertente, ma perché? Digiuna Tucano... No, voi non avete idea quanto mangia e quanto evacua il tucano. Vabbè, ma è una natura anche, insomma, non credo che... Sapete, amici, io in teoria non avrei niente contro il tucano. Vabbè, meno male. Non mi ha mica fatto niente, solo che questa settimana sono di turno per le pulizie e per colpa sua devo lavorare il doppio. Sì, vabbè, ma qui proprio siamo a... Però tranquilli, io voglio bene al tucano. È un fratello. Sono contento che... Sì, anch'io. Avevo pensato male di te la prima volta che ti ho visto. Facendo sì, anche discorsi la seconda, strani. Tranquilli, io sono amico di tutti. A proposito, la prossima settimana le pulizie toccano a voi. A noi? Sì. Cosa c'è di strano? Hai appena detto che sei amico di tutti e già ti sei fatto due nemici, quindi... Non capisco perché vi lamentate. Pulizia. Prima o poi tocca a tutti. Prima o poi tocca a tutti. Vabbè, Kappa, non mi piace più stare qui dentro. Dillo a me, dillo a me. Mi sa che ci ha scambiato per dei polli, quindi c'è un po' di confusione. Ma voi siete dei polli! You're chickens, just like everybody else! Polli, polli, polli, chickens! Chickens! Ma aspetta, dove vai? Ma cosa vuol dire? Cosa voleva dire che siamo dei polli? Cioè, ma non lascia perdere, Drago, è solo... È solo una sua... Kappa! È solo propaganda! Che ora è? È mezzanotte. L'ora dei balordi. Ecco, è mezzanotte. Da adesso in poi è il mio compleanno. Vediamo chi mi fa gli auguri per primo. Sono quasi 30 anni da quando gestisco discoteche che festeggio il compleanno al lavoro. Da alcuni anni in qua, diciamo dal primo miliardo di fatturato in poi, ho imparato l'importanza del primo sorriso ben augurante. Col fatto che sono qui con tutti i miei dipendenti, scatta una morbosa solerzia nel farmi gli auguri. Ho capito che il primo a farmi gli auguri è di solito il più infido, quello che ha di più da farsi perdonare. Di solito lo licenzio dopo poche settimane. È una notte strana, quella del mio compleanno, perché a un certo punto mi travesto da cliente. Mi faccio preparare un tavolo tutto mio con tanto di torta di panna gommosa. Poi mi faccio portare il solito corredo di champagne scadente e piatti di frutta. Spengo le candeline, circondato dalle cubiste, bevo, rido come un matto e cerco un punto di vista. È il punto di vista del cliente, di quello che spende 3.000 euro per tutto questo ciarpame, per regalarsi un pirotecnico salto oltre la soglia dei 40 anni. È il punto di vista di quello che si diverte. E accidenti, non lo trovo mai. Non riesco mai a cogliere la linea d'orizzonte di una felicità o quantomeno di un vago appagamento che dovrebbe stagliarmisi davanti agli occhi in una serata così. A volte mi ci avvicino, mi sembra di intravederla, ma alla fine io non riesco mai a divertirmi. E allora è per questo, perché è l'unica emozione vera rimasta di questo giorno, che sono grato al cassiere che mi sta venendo incontro per farmi gli auguri per primo. Purtroppo per lui è una gratitudine che so manifestargli solo attraverso il sadismo del potere. Io il più bello, il più elegante, il più sinuoso essere volante. Io il più bianco, lucente, intrigante, il più perfetto con l'assetto di un aliante, ridotto così come cadavere spiaggiato, così come animale contagioso ammalato. Ero un sogno, ero il cigno più bello del mondo, sogno infranto. E questo stanotte il mio canto, e questo stanotte il mio canto. La fabbrica di Polly. Cappa. L'inglese ci ha fatto vedere un avvoltoio che a forza di stare qui stava diventando un pollo. Poi ci ha detto che succede così a tutti. E poi ci ha detto che anche noi, anche io e te, stiamo diventando due polli. Dai, ma Drago, quel pollo è un pazzo. Non devi farti impressionare. Sì, non ci pensare. Non ci penso, però dovremmo fare la prova del 9. Cioè telefonare allo scrittore Aldo 9 e farci giudicare da lui. Che stronza! Ma no, guardarci in uno specchio, no? Uno specchio. Uno specchio, qui nella fabbrica di polli, Drago, non è facile da trovare. Ma lo troviamo. Ma basta che ci guardiamo a vicenda, io e te. Aspetta. No, ma tu mi sembri brutto come sempre, Drago, uguale a prima, non c'è nessuna... Però anche tu, differenza. Brutto come prima, sì. Niente piume, niente becco. Allora possiamo stare tranquilli. Ma se ci dedichiamo alla lotta per far concedere la grazia al tucano, stiamo tranquilli. Vabbè, ma invece se fossimo in una situazione ai confini della realtà, cioè che noi crediamo di essere ancora umani, invece ci stiamo trasformando in polli? Secondo me il confine della realtà l'abbiamo superato da un pezzo. Quindi togliti dalla testa certe idee, noi siamo noi, i polli sono i polli, dai, non c'è nessuna parentela, stai tranquillo. E allora perché non abbiamo più sentito il bisogno di uscire di qui? Perché il tempo si è fermato, è sempre mezzanotte e tutto quello che ci è successo fino adesso è frutto di una strana situazione che non so, forse potremmo definire... lo stallo temporale. Si dice stallo temporale, uno stallo temporale. Ah sì, stalla temporale o pollaio spaziale o pollaio stallo, temporale. Non stalla. Ah sì, stallo, lo stesso. No. Perché noi qui siamo in mezzo alla merda di gallina. Ti piace stare nella merda di gallina? Alla fine, guarda, sai cosa ti dico? Non è poi così male. No, scusa. Cosa? Cosa ti è successo? Cosa? No, niente, no, mi era apparso di sentire... No, niente, mi ero spaventato, scusa, no. Che cosa succederà adesso? Kappa si sta davvero trasformando in un pollo. E Drago? E tutti gli altri? Chi è un pollo e chi non lo è? Lo saprete solo ascoltando domani a mezzanotte su Radio 3 il prossimo beccacciuto allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Ladies and gentlemen, good night. Barrumen.